cosina crudel, tu mi vuoi morto? Signor, io bramo che vi fiate felici. Ma perduto son io. Che dite? Amo la baronessa, mi struggo a suoi bei rai, ma non potrò giamai passare il mio ben se tu non porgi a villotto la mano. Davvero, non intendo col partir vostro amore abbia con me. Purtroppo lo comprendo. De non cercar di più, son troppo amante, ed ella troppo bella, e mi fa delirar. Rosina, credimi, tu sei l'unica mia speranza. Sì, tu sei la mia speme. Nomi, sogno, o deliro. Io per te vivo in pene. Ma questa è curiosa. Tu mi puoi sollevar. Viva la sposa! Da te sola dipende la mia felicità. Perfido, indegno! Infila scelerata! Come si spiega me? Femine grata! E lieta in un istante, solo render tu puoi quest'alma amante.